Eccoci qua ancora alla ricerca dell'isola di Wight, secondo giorno di viaggio. È incredibile, siamo partiti da Parigi con l'idea di arrivare finalmente a questa mitica isola di Wight e abbiamo sbagliato strada, è incredibile. Ci siamo trovati a Cardiff, ci siamo addormentati in treno e sono successe le cose campali per tutto il giorno. Adesso qua siamo in un parcheggio sperduti di Cardiff. Praticamente cosa è successo? Il nostro treno ce lo hanno annullato, cancellato, ci hanno mandato, sbattuto da delle persone strane che ci avevano delle tesserine al collo che sembrava di essere quasi per entrare in un penitenziario americano e ci hanno dato dei biglietti per un treno che non è partito con un'ora di ritardo. Socio, è stata una cosa incredibile. Sì, e il tratto Parigi-Londra, la macchina organizzativa, insomma, ha funzionato, c'è stato questo intoppo, ci hanno annullato il treno fissato da casa alle 8.38 al check-in, perché comunque sia c'è da fare un check-in con tanto di doppia frontiera francese e poi dopo quella inglese, e al check-in il ragazzo ci ha detto che il treno nostro è annullato, ci hanno messo in quello delle 9.10 che a sua volta ha avuto 1 ora e 20 di ritardo, quindi si è rallentato tutto di quasi 3 ore il nostro arrivo a Cardiff, però ci siamo rifatti ugualmente, perché comunque sia la città non è grossa, insomma, comincia a girellare, ti rendi conto che le solite 4-5 strade le rifai tante volte, quindi si è fatto bene uguale. Ormai siamo entrati in questo vortice, l'arrivo a Londra è stato ritardato tantissimo, l'arrivo a Cardiff non era previsto, incredibile. Ci siamo addormentati nel treno che andava da Londra verso Bristol e ci siamo addormentati passata la stazione di Bristol, Cardiff. Fortuna ha voluto che nessun controllore, che nessun poliziotto ci abbia magari fermato e chiesto il biglietto, perché non ce lo avevamo. E comunque arrivati a Cardiff, una grossa sorpresa, abbiamo trovato una cittadina molto accogliente, molto calda, nonostante che qua la stagione sia già piovigginosa e fresca. Fate conto, usciamo già con la felpa anche durante il giorno e stiamo bene così, altrimenti ci farebbe freddo. Insomma, dicevamo, la città è molto accogliente, molto fresca. Abbiamo trovato tra l'altro una situazione di addobbi fantastica, perché pieno di fiori, pieno di cose in questo modo attaccate alle luminarie e il bandiere arcobaleno. Infatti abbiamo chiesto, c'è stato il Gay Pride credo la settimana prima oppure ci sarà la settimana prossima, non abbiamo capito bene, perché sì, per quanto abbiamo letto i libri, guardato i documentari e i film in inglese, quando poi ti ritrovi sul pezzo a avere la freschezza di comprendere e rispondere soprattutto alla prima è difficile, comunque già dopo 2 giorni un po' meglio va. In ogni caso è stata una serata spettacolare, iniziata nel migliore dei modi, vale a dire in un bel pub, dove pub all'inglese, vero socio? Sì, pub se ne è fatti 7-8, parlare di un pub solo mi sembra un po' riduttivo, perché si sono fatti tutti quelli grossi, quindi se ne è visti diversi, sì. Si è vista anche la partita, Crystal Palace-Liverpool, con quelli di Liverpool. Crystal Palace-Liverpool con una serie di tifosi del Liverpool. E stranamente a Cardiff, però c'erano. E poi immancabile è stata la cena. Prima cena inglese, alla fine anzi gallese, perché siamo arrivati fino a Cardiff, con un mitico fish and chips, che era tra l'altro spettacolare, una cosa che in Italia alcuni scimmiottano, alcuni te lo rifanno, sì, faccio fish and chips, mettono lì una fetta di merluzzaccio in qualche modo in un piatto con forse un po' di insalata e te lo danno, e a noi ci sembra di mangiare chissà cosa, ma vi assicuro che mangiato qua il fish and chips è tutta un'altra cosa. E le birre, si è fatto una bella selezione di birre, si è provato dalle birre a pompa, poi si è provato la Carling, si è provato la Hop House 13, varie Carling, io personalmente non ho bevuto diverse, in diversi posti. E la serata è andata bene, è andata alla lunga, siamo rientrati storditi come pochi e ci siamo però alzati di buon'ora e andremo forse in giro ancora alla ricerca dell'isola di Wight, grazie agli amici ascoltatori di Radio Big World che viaggeranno con noi alla ricerca della mitica isola.